Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Sono le 21 e 2 minuti, è il momento di Effetto Notte, ancora per questa sera con me, Marta Cagnola. Staremo insieme fino alle 22 con tutte le notizie di questa sera, una serata molto intensa con notizie molto molto importanti che seguiremo appunto per un'ora in tutta la loro evoluzione. Tante pagine da aprire, ci sono sempre i numeri per tenervi in contatto con noi per discutere un po' insieme delle notizie del giorno. 349-238-6666 è il numero che va bene sia per i vostri WhatsApp che per i vostri SMS, ma questi sono i titoli del nostro Effetto Notte. Gli Stati Uniti lanciano in Afghanistan la più grande bomba convenzionale dell'arsenale, non era mai stata usata. Finisce dopo 31 anni l'era Berlusconi per il Milan, la squadra è ora di proprietà cinese. Per il dossier firme false del Movimento 5 Stelle, la Procura di Palermo chiede il processo per 14 persone. Very, very proud of the people. Another, really another successful job. We're very, very proud of our military. Just like we're proud of the folks in this room, we are so proud of our military, and it was another successful event. Un'altra missione di successo, sono molto orgoglioso dei nostri militari, lo avete sentito, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump così ha risposto alle domande dei giornalisti sulla superbomb sganciata oggi dagli Stati Uniti in Afghanistan. Ma per tutti i particolari e per tutti gli aggiornamenti ci colleghiamo con New York, dove c'è per noi Marco Valsani. A Marco. Sì, salve, buonasera. Allora Marco, partiamo proprio dal fatto che ha parlato Donald Trump e ha un po' spiegato quello che è successo. Sì, ha di fatto rivendicato il successo della missione, di questa altra missione, nuova missione militare, in questo caso, come ricordavi, un attacco con la più grande bomba nell'arsenale, bomba convenzionale nell'arsenale americano, una bomba non a caso soprannominata madre di tutte le bombe, Mother of All Bombs, che era stata sviluppata negli anni della guerra in Iraq ma poi mai utilizzata. È un ordigno di oltre 10 tonnellate che ha l'obiettivo specifico di colpire, danneggiare, distruggere bunker tunnel e reti protette sotterranee usate da forze armate, in questo caso da ISIS e dalle sue forze terroristiche. L'esercito americano, le forze armate americane e il Pentagono hanno rivendicato successo nell'attaccare questa rete di tunnel usati da ISIS in Afghanistan per operazioni contro le forze armate americane e alleate nel paese, e come abbiamo sentito Trump stesso ha rivendicato successo, ha rivendicato di aver dato l'autorizzazione completa per questa operazione e se così sarà, se il successo verrà in questo senso confermato, potrebbe rappresentare così anche una sorta di riscatto rispetto a quella che era stata la sua precedente missione in Medio Oriente, meno così minor successo e più tragica, quella avvenuta in Yemen, dove perse la vita anche un soldato delle forze speciali americane. Tra l'altro di minor successo anche un recente attacco in Siria di forze aeree alleate guidate dagli Stati Uniti, in cui sono rimasti uccisi 18 in realtà ribelli sostenuti formalmente dagli Stati, certo, Uniti per un errore di obiettivo. Grazie a Marco Valsani. Noi torneremo a parlare ovviamente di questa che è la notizia principale della serata. Grazie a Marco Valsani che è stato collegato con noi da New York. Grazie Marco. A proposito sempre di Casa Bianca, Sean Spicer, il portavoce, ha annunciato la visita a Washington del presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, che il 20 aprile incontrerà Donald Trump. Tra i temi al centro del colloquio, il prossimo summit del G7 a Taormina. E ora ci spostiamo in Siria. Definitely, 100% for us it's fabrication. È certamente un'invenzione, lo è al 100%. Così il presidente siriano Bashar al-Assad, in un'intervista alla France Press, nega di aver sferrato l'attacco chimico contro Khan Sheikhoun, città siriana sotto il controllo dei ribelli, in cui sono morte più di 80 persone, tra cui 28 bambini. Damasco, aggiunge Assad, ha consegnato tutte le armi chimiche diversi anni fa all'ONU e anche se le avessimo ancora non le useremmo. Il governo siriano, continua il leader di Damasco, è pronto ad aprire il paese agli ispettori, ma l'inchiesta, sottolinea Assad, deve essere in imparziale. Gli USA, conclude il Rais, non sono seri nei tentativi di trovare una soluzione politica alla guerra civile, usano il negoziato per favorire i terroristi. La replica di Assad nel giorno in cui le forze armate USA fanno sapere che in seguito ad un raid aereo nel nord della Siria sono rimasti uccisi per errore 18 combattenti alleati, in prevalenza curdi, impegnati nella lotta all'ISIS. Intanto l'agenzia governativa siriana Sana afferma che centinaia di persone, tra cui civili, sono morte nell'est della Siria in un raid compiuto dalla coalizione anti-ISIS a guida USA contro un deposito di armi chimiche dello Stato Islamico. Su questa notizia però non si hanno conferme da fonti indipendenti. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La Guardia Costiera Libica ha segnalato il naufragio di un gommone al largo della Libia, nel quale ci sarebbero 97 dispersi. I 23 sopravvissuti sono stati portati a Tripoli. Misure di sicurezza innalzate in tutta Italia, in particolare a Roma, per le celebrazioni del Triduo Pasquale. Nella capitale si lavora ai dettagli del piano per la sicurezza che verrà messo in atto durante le festività di Pasqua. Per la Via Crucis, in programma domani sera, saranno istituiti varchi di accesso e controlli con i metal detector nella zona attorno al Colosseo. Via dei Fori Imperiali sarà chiusa al traffico, squadre di artificieri e unità cinofile antiesplosivo avranno il compito di bonificare tutta l'area, che sarà anche sottoposta a videosorveglianza. Il rafforzamento dei controlli riguarderà tutti gli eventi religiosi in programma nei prossimi giorni, ma anche le aree turistiche e i luoghi affollati come centri commerciali e vie dello shopping. A preoccupare le forze dell'ordine però non c'è solo Roma. Il Viminale ha infatti deciso di intensificare la vigilanza in tutta Italia, sia in occasione delle cerimonie legate alla Settimana Santa, sia attorno agli obiettivi a rischio e ai luoghi dove si registra un particolare afflusso di turisti, come porti, aeroporti e stazioni. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Finisce l'era Berlusconi al Milan e anche un pezzo importante dello sport italiano passa in mani straniere. I cinesi sono da oggi proprietari della squadra italiana che ha vinto più titoli. 21 righe di comunicato per scrivere la parola fine su una storia durata un trentennio e per chiudere definitivamente una trattativa infinita. Il Milan non è più di Fininvest di Silvio Berlusconi, che non sarà nemmeno presidente onorario avendo declinato l'offerta dei cinesi. L'ufficialità del closing è arrivata alle 14, quando c'è stata la certezza che gli ultimi 370 milioni di euro erano stati bonificati dalla Rossoneri Sport Investment Lussemburgo ai conti di Fininvest. Negli uffici dello studio legale del centro di Milano, Fassone e Anli hanno potuto brindare. 740 milioni la valutazione, debiti compresi, altri 90 sono stati messi a rimborso delle spese sostenute dal 1 luglio ad oggi. Nelle prossime ore le dimissioni di Galliani del CDA, domani l'assemblea dei soci, poi toccherà a Fassone alla nuova dirigenza, trovare finanziatori, restituire il prestito al fondo Elliott e rilanciare la squadra sono le priorità di Yongon Lee, che ha giurato che il Milan tornerà sul tetto del mondo. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E di questo argomento torneremo a parlare più tardi nell'ultimo blocco del nostro Effetto Notte con Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore, che verrà a trovarci in studio. Il CDM ha dato il via libera alla fusione di FS e ANAS, che formeranno un polo integrato strade e ferrovie. ANAS resta una società con una sua autonomia. Dal Consiglio dei Ministri novità anche in tema di appalti. Seconda riforma per gli appalti pubblici. Il governo ha approvato stamattina il decreto di oltre 130 articoli per risolvere in corsa le criticità riscontrate nei primi mesi di applicazione della riforma del 2016. L'obiettivo ora è far ripartire i cantieri, soprattutto quelli più piccoli e diffusi sul territorio nazionale, superando le strozzature che finora hanno impedito che i fondi si trasformassero in opere pubbliche. A questo scopo il decreto introduce misure per rendere più rapida l'assegnazione dei lavori fino a 2 milioni di euro, con un metodo antiturbativa per evitare la formazione di cartelli tra imprese. Vengono poi fatti salvi i progetti approvati prima dell'entrata in vigore del nuovo codice, con soluzioni semplificate per le manutenzioni. Ci sono poi aiuti per le piccole e medie imprese, insieme a una stretta sui pagamenti della PA e l'obbligo di usare specifici parametri per stabilire i compensi dei progettisti. La sfida è rimettere in moto la macchina degli investimenti, anche quelli realizzati con il contributo di capitali privati. Vedremo nei prossimi mesi se il traguardo sarà raggiunto. Mauro Salerno, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. È iniziato da poco al Ministero dello Sviluppo un tavolo tra governo, Alitalia e sindacati. Il confronto tra tutte le parti fa seguito a una serie di incontri separati. Prima i sindacati hanno presentato una nuova proposta al governo, che successivamente l'ha presentata all'azienda. La politica: Michele Emiliano annuncia ricorso dopo essere stato escluso dalle primarie del PD in Lombardia e Liguria per mancanza di firme a sostegno della sua lista. E la Procura di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio per le persone coinvolte nell'indagine sulle firme false depositate dal Movimento 5 Stelle a sostegno delle liste per le amministrative del 2012 a Palermo. Sul caso delle firme false del Movimento 5 Stelle a Palermo, la Procura chiede 14 rinvii a giudizio, ma i grillini non ci stanno. Tra gli indagati ci sono 3 deputati nazionali, 2 regionali e un cancelliere del Tribunale. Il caso riguarda l'indagine per le firme a sostegno delle liste per le comunali del 2012. I reati contestati sono falso e violazione di norme in materia elettorale. I 5 Stelle reagiscono. Per i deputati coinvolti, Nuti, Di Vita e Mannino, è chiaro il tentativo di levarci politicamente di mezzo per avere campo libero attraverso una montatura ben organizzata. Per Luigi Di Maio invece il caso è chiuso. Questi 3 parlamentari, dice il vicepresidente della Camera, e altri coinvolti sono già stati sospesi in autunno. Il Movimento 5 Stelle arriva prima dei rinvii a giudizio. Ma dal PD replicano: Di Maio mente, i 3 deputati fanno ancora parte dei 5 Stelle, sono presenti alle sedute in aula, siedono sempre negli stessi posti, presentano interrogazioni, intervengono nelle riunioni. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora l'indagine Consip che si allarga. Prosegue l'inchiesta Consip, ma adesso si torna a parlare nella Procura di Roma delle indagini da cui tutto è partito. Il caso di corruzione per la maxi gara da 2,7 miliardi per i servizi della pubblica amministrazione, gara per cui l'imprenditore Alfredo Romeo avrebbe corrotto un funzionario di Consip. Stamani i carabinieri di Roma e la GDF di Napoli hanno acquisito nuovi documenti negli uffici di Consip che potrebbero aiutare a capire se ci sono state pressioni da parte dei vari concorrenti, non solo Romeo, ma anche la Cofeli e Manutencoop. I procuratori di Roma, quindi, rispetto a quelli di Napoli, sembrano intenzionati ad approfondire i reati più definiti, mettendo invece in discussione l'incartamento girato dai colleghi napoletani sul presunto traffico illecito di influenze contestato a Tiziano Renzi, padre dell'ex premier. Si parla dunque di scontro fra le due procure, quella di Roma e quella di Napoli, scontro che si sarebbe aggravato dopo l'accusa di falso ideologico nei confronti del capitano dei Carabinieri che avrebbe modificato un'intercettazione in cui si parla proprio di Tiziano Renzi. Sul contrasto fra Roma e Napoli dovrà esprimersi il Consiglio Superiore della Magistratura la settimana prossima. Sara Monaci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ne parleremo ancora nel corso di questo effetto notte. Chiudiamo con un'altra notizia di esteri. In Germania cadono tutte le accuse nei confronti delle persone fermate per l'attacco al pullman del Borussia Dortmund. Cade la pista islamica, o almeno le accuse a quelli che parevano i principali sospettati. La Procura federale tedesca ha ammesso che non sono emerse prove che l'iracheno arrestato ieri sia coinvolto nell'attacco all'autobus del Borussia Dortmund. Per lui resta un mandato d'arresto, ma per sospetti di aver aderito all'ISIS in Iraq. E anche la seconda persona finita nel mirino non è più sospettata. L'appartamento dell'uomo, un 28enne tedesco, era stato perquisito ieri, al pari di quello del 26enne iracheno, ma nulla è emerso che li colleghi a quanto accaduto. Restano aperte dunque tutte le piste, compresa quella di un attacco di estremisti locali, tanto di destra quanto di sinistra. Non si esclude neppure che la lettera di rivendicazione dell'attentato lasciata nelle vicinanze, di matrice fondamentalista islamica, ma da subito definita anomala, avesse proprio lo scopo di creare una falsa pista. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sono 21:15, una brevissima pausa per il traffico e poi apriremo una lunga pagina di esteri. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Le notizie e i titoli di questo effetto notte. Gli Stati Uniti lanciano in Afghanistan la più grande bomba convenzionale dell'arsenale, non era mai stata usata. Finisce dopo 31 anni l'era Berlusconi per il Milan, la squadra è ora di proprietà cinese. E poi una notizia che si sta proprio svolgendo in questi minuti all'Italia, in corso il tavolo governo, azienda, sindacati. E noi andiamo alla notizia della serata, che introdurrei con questo audio. March 11th, 2003, marked a milestone in military history. At Eglin Air Force Base in Florida, the United States tested a new superweapon. Moab, short for Massive Ordnance Airburst, quickly became known as the mother of all bombs. The mother of all bombs, la madre di tutte le bombe, Moab. Questo documentario di History Channel presentava i test nel 2003 di questo grande ordigno che non era mai stato utilizzato. È stato utilizzato oggi per colpire l'Afghanistan orientale, una zona chiamata Nangarhar, l'obiettivo quello di colpire l'ISIS. Per cercare di capire questa notizia, per cercare di capire questa decisione degli Stati Uniti, cominciamo a collegarci con il professor Stefano Silvestri, analista, già presidente dell'Istituto Affari Internazionali. Buonasera, professor Silvestri. Buonasera. Professore, allora, ci aiuta a capire questa decisione di sganciare questa madre di tutte le bombe sull'Afghanistan orientale? Ma questa è una grande bomba convenzionale che ha come effetto quella di provocare una forte esplosione con grande spostamento d'aria molto violento e quindi forti distruzioni tutto intorno. Perché usarla? Ma io adesso non so quale fosse la situazione tattica sul terreno, ma diciamo che questo ordigno, a parte le distruzioni, le uccisioni che può provocare, dovrebbe avere, nell'ottica di chi lo ha concepito, un effetto anche psicologico, cioè dare l'impressione di una totale impotenza di fronte all'uso di armi di questo genere e quindi di scoraggiamento dell'avversario. Queste sono sempre ipotesi un po' complicate da provare, non è detto che funzionino, però comunque questa era un po' la logica di questo ordigno quando era stato costruito. Adesso lo hanno utilizzato, finora avevano fatto soltanto dei test e vedremo un po' che effetto ha. Diciamo che l'impressione è quella che i militari hanno voluto dare un segnale molto forte, che siccome segue quello del bombardamento della base aerea siriana, dà un po' l'impressione che gli Stati Uniti siano molto decisi militarmente ad usare la loro superiorità di fuoco e la loro superiorità tecnologica, siano essi i missili di crociera nel caso siriano o il Moab nel caso afghano. Professor Silvestri, sentiamo cosa ha detto ancora il portavoce della Casa Bianca, Sean Spicer, che ha spiegato che sono state prese delle precauzioni. Ecco qui. The United States takes the fight against ISIS very seriously, and in order to defeat the group, we must deny them operational space, which we did. The United States took all precautions necessary to prevent civilian casualties and collateral damage as a result of the operation. Any further details, I would refer you to the Department of Defense on that. Allora, precauzioni per evitare vittime civili e danni collaterali, perché immagino che sia anche un'affermazione importante per l'opinione pubblica, cioè mostrare la potenza degli Stati Uniti, come ha detto Donald Trump, un grande successo, ma evitare vittime collaterali. Sì, beh, un po' questo è stato tentato anche nel caso del bombardamento in Siria, perché sono stati avvertiti prima i russi e quindi suppongo anche i siriani indirettamente del bombardamento che sarebbe arrivato. Infatti la base era stata sostanzialmente evacuata e ci sono stati pochi morti. Una base aerea normalmente è piena di gente, ci sono 1000, certo, 1500 persone, quindi sarebbe stata una cosa completamente diversa. Diciamo che adesso io appunto non so come abbiano evitato danni collaterali in questo caso. Direi che tutto dipende dove hanno buttato la bomba e chi c'era sotto. Certo. Professore, era da un po' che non sentivamo parlare di Afghanistan, non che ce lo fossimo dimenticato, ma non era una zona di cui si parlasse spesso nelle cronache. Eppure, è stato spiegato, per colpire l'ISIS si colpisce lì. Perché? Cosa succede ancora in Afghanistan? In Afghanistan c'è, come nel resto del mondo islamico, soprattutto dove ci sono questo tipo di problemi di lotte interne, c'è una competizione tra Al-Qaeda e l'ISIS su chi raccoglie più consensi tra i potenziali terroristi, i jihadisti, gli estremisti. E evidentemente questo significa agire in tutti i terreni di lotta. Abbiamo Al-Qaeda e l'ISIS che si fanno concorrenza in Iraq, in Siria, in Yemen ed anche in Afghanistan. Secondo lei, professore, quali potranno essere le prossime mosse di Trump, che è obiettivamente in questo periodo osservato speciale della comunità internazionale? Tutti stanno cercando di capire come si comporta sullo scacchiere internazionale, tanto più che la scorsa settimana ha stupito tutti coloro che forse ingenuamente pensavano che avrebbe legato a doppio filo gli Stati Uniti con la Russia. Sì, anche se appunto ormai ha molte difficoltà con la Russia, non solo perché la Russia è poco cooperativa, ma anche perché c'è stato tutto il problema, c'è stata tutta la serie di rivelazioni su contatti con esponenti russi da parte di membri del suo staff durante il periodo elettorale e il tentativo probabile di Putin di influenzare l'andamento delle elezioni, e questo rende molto difficile un'apertura secca alla Russia in questo momento da parte di Trump. Un'apertura che tra l'altro non è amata da buona parte del Partito Repubblicano. Diciamo che quindi si stupisce per il momento, direi che sembra essersi affidato a dei grandi colpi di teatro militari. Vedremo se poi da questo nascerà anche una politica, perché finora non è che sia chiaro quale sia questa politica. Certo, certo. Professor Silvestri, la ringrazio tantissimo, è stato davvero prezioso. Il professor Stefano Silvestri, già presidente dell'Istituto Affari Internazionali. Grazie mille, grazie per averci dato una mano a capire la notizia di questa sera. Grazie, professore. Prego, grazie a voi, arrivederci. E noi voltiamo pagina per qualche minuto, perché ve l'avevo promesso, saremmo tornati a parlare dell'affare dell'inchiesta Consip, perché le cose, insomma, si stanno complicando, si stanno allargando. Torniamo a collegarci con la bravissima collega del Sole 24 Ore, Sara Monaci. Ciao Sara. Ciao, buonasera. Allora Sara, torniamo a parlare di questa inchiesta che anche oggi ha rivelato nuovi aspetti. Sì, oggi sono stati acquisiti da parte della Guardia di Finanza e dei Carabinieri dei nuovi documenti proprio nell'ente, negli uffici dell'ente Consip, che lo ricordo è l'ente che fa gare per la pubblica amministrazione. Ecco, questo è il dato di fatto. Cosa significa? Significa probabilmente che la Procura di Roma, che adesso ha tutto il faldone, ha tutta l'indagine che è stata trasferita dalla Procura di Napoli, sembrerebbe più interessata a tornare al nucleo centrale dell'inchiesta, ovvero la presunta corruzione che poteva esserci all'interno della Consip per l'aggiudicazione delle gare. In particolare il faro è su questa gara FM4, ovvero una serie di servizi su più uffici della pubblica amministrazione in più regioni. Lo ricordo, l'inchiesta ha già portato in custodia cautelare in carcere l'imprenditore napoletano Alfredo Romeo, che è accusato di aver corrotto un funzionario Consip, Marco Gasparri, a cui è stata pagata una tangente di 100.000 euro per sua stessa ammissione. Ecco, l'inchiesta, lo ricordo, è partita in questo modo, poi ha parlato di tutt'altro, cioè di traffico di influenze illecite commesse dal padre dell'ex premier Tiziano Renzi e anche di rivelazioni di segreto d'ufficio commesso dal ministro Luca Lotti. Questi aspetti erano stati rilevati dalla Procura di Napoli e tuttavia la Procura di Roma sta sollevando dubbi su questo secondo aspetto. Tiziano Renzi doveva essere, secondo la prima tesi, l'intermediario tra l'imprenditore Romeo e i vertici Consip, in concorso con l'amico imprenditore di Scandicci Carlo Russo. Adesso però da due giorni è emerso il fatto che un carabiniere del NOE avrebbe manomesso, chissà se per errore o per una regia, l'intercettazione che è tra gli indizi più forti contro Tiziano Renzi, dove Romeo avrebbe detto appunto l'ultima volta che ho incontrato Renzi. In realtà si scopre che questa frase a pronunciarla sarebbe stato Italo Bocchino, anche lui indagato per traffico di influenze illecite, ma che probabilmente si riferiva a tutt'altro contesto. L'ultima volta che l'ho incontrato, intendendo l'ultima volta che ho incontrato l'ex premier durante un incontro pubblico in un teatro. Questo chiaramente ha gettato un'ombra su tutta l'inchiesta, sul fatto che probabilmente, certo, ecco, la Procura di Napoli avesse altre intenzioni, e quindi ufficiosamente si continua a parlare di questo screzzo, di questo scontro fra procure, che ovviamente il procuratore capo di Napoli, Woodcock, sta smentendo. Dalla Procura di Roma invece non trapela nulla. Tuttavia quello che sappiamo è che questo carabiniere indagato per falso ideologico al momento da oggi si è messo in ferie, si è sospeso dall'inchiesta, e sappiamo che in Roma però, come ho detto prima, sta facendo dei rilievi e sta acquisendo documenti che riguardano la corruzione, che rispetto al traffico illecito, al traffico di influenze illecite, è un reato molto più circoscrivibile, certo, molto più grave, ma anche più definito, perché il traffico di influenze illecite è quel reato per cui un intermediario si fa carico di una connessione fra il presunto corrotto e il presunto corruttore in nome di una sua qualche relazione con il pubblico ufficiale, o in nome anche di una sua reputazione di alto livello. In questo caso chiaramente si parla del padre di Matteo Renzi. E questa storia aveva anche creato, diciamo, malumori, diciamo così, tra i 5 Stelle. Malumori, sentiamo come ha reagito Di Maio questa sera, che ha commentato alcune notizie, ospite di Corriere Live, e proprio il commento in merito all'inchiesta Consip è stato questo. Qui non c'è proprio niente di cui scusarsi. Il caso Consip è ancora lì. Non mi riferisco al Renzi Tiziano, il caso Consip. Sì, no, sto dicendo, il caso Consip è ancora lì e il padre di Renzi è ancora indagato nel caso Consip. Quindi ancora indagato, questo è vero, no, Sara? Però l'inchiesta, insomma, è un po' cambiata, diciamo, nei suoi confini, ecco. È assolutamente cambiata, poi vedremo, effettivamente questo era un indizio, ce ne sono altri che possono ancora esistere. Tuttavia l'incontro che doveva essere avvenuto tra Romeo e Tiziano Renzi oggi chiaramente viene messo maggiormente in discussione, così come altri dettagli ovviamente da parte della difesa vengono messi in discussione, ma leggendoli un po' adesso alla luce di queste nuove informazioni fanno venire comunque il sospetto che la ricostruzione non sia in tutto e per tutto, certo, coerente, anche certo, perché Tiziano Renzi si parla di un incontro avvenuto con Romeo, ma viene riferito anche da un'altra persona, che è questo commercialista che si chiama Mazzei. Mazzei lo riporta nei suoi interrogatori, ma gli è stato riferito da Romeo, e sembra che Romeo in realtà volesse recuperare la sua reputazione per un'inchiesta precedente che aveva avuto e che lo aveva visto poi assolto e al quale voleva poi riabilitarsi. Quindi non si sa bene se intendesse agganciare Tiziano Renzi o lo stesso Matteo Renzi. Il profilo penale tuttavia sfugge, o quantomeno, se non è contestualizzato in modo più forte da qualche indizio maggiore, diciamo che questa era una pistola fumante che al momento però potrebbe esatto, non esserci, potrebbe non esserci, e potrebbe addirittura ritorcersi un po' contro anche rispetto proprio all'impianto, certo, generale dell'inchiesta. Quindi io posso capire che la Procura di Roma, proprio per non perdere all'inchiesta, voglia tornare a quel nucleo centrale che dava, passatemi il termine, maggiori garanzie dal punto di vista della ricostruzione penale. Grazie, grazie Sara. Grazie mille, grazie a Sara Monaci, buon lavoro. Grazie a voi, grazie. Buonasera. Grazie a Sara Monaci, noi facciamo una brevissima pausa, poi torniamo ancora sulla notizia della serata sulla bomba in Afghanistan tra pochissimo. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Gli Stati Uniti lanciano in Afghanistan la più grande bomba convenzionale dell'arsenale, non era mai stata usata. Finisce dopo 31 anni l'era Berlusconi per il Milan, la squadra è ora di proprietà cinese. Alitalia, in corso il tavolo governo, azienda, sindacati. At around 7 p.m. local time in Afghanistan last night, the United States military used a GBU-43 weapon in Afghanistan. The GBU-43 is a large, powerful, and accurately delivered weapon. We targeted a system of tunnels and caves that ISIS fighters used to move around freely, making it easier for them to target U.S. military advisors and Afghan forces in the area. La voce del portavoce della Casa Bianca, Sean Spicer. La notizia della serata, lo avete sentito, la madre di tutte le bombe, Moab, la cosiddetta bomba Moab, pesa quasi 10 tonnellate, ha la forza di distruggere tutto nel raggio di centinaia di metri, è stata sganciata dagli Stati Uniti sull'Afghanistan orientale, nella zona di Nangarhar, Sean Spicer ha spiegato, contro un sistema di tunnel, contro un sistema sotterraneo di comunicazione, ma anche depositi di armi dell'ISIS. E per tornare ad approfondire la notizia ci colleghiamo con il nostro Alberto Negri del Sole 24 Ore. Alberto, buonasera. Buonasera a tutti voi. E così accontentiamo anche l'ascoltatore Mauro che ci aveva appena scritto al 349-238-6666 lamentandosi di non aver ancora sentito l'analisi di Alberto Negri. È qua, ce l'abbiamo Alberto Negri. Alberto, cosa hai pensato appena hai letto questa notizia sulle agenzie? Qual è stata la tua prima impressione? Ma che non ci sono bombe o missili che possano riempire il vuoto di una politica. E purtroppo mi è venuto in mente questo, bombe, missili, armi chimiche. Ho l'impressione quasi che questa escalation militare e tecnologica sia un modo anche un po' appunto di, come dire, riempire i vuoti di idee e in qualche modo di soluzione di grandi problemi anche complessi che attraversano paesi come l'Afghanistan, come la Siria, come il Medio Oriente. Voglio ricordare soltanto che domani a Mosca sarà un vertice di 11 paesi per discutere negoziato per l'Afghanistan, ma non ci sono gli Stati Uniti. Cioè, diciamoci questo. È vero, bisogna rispondere, si deve rispondere in qualche modo, questa è la superpotenza che è contrastata nel mondo, che detta l'agenda per tutti, però poi non ha una soluzione, anche sul caso di Assad e della Siria. Parliamoci chiaro, va bene dire che Assad se ne deve andare, lo dicono da 6 anni, ma hanno un piano questa volta? Dobbiamo ricordare cosa è accaduto in Iraq o in Libia. Quindi questo ci spinge a pensare che non possiamo aspettarci nulla, cioè che non c'è una strategia per l'immediato futuro. Ma una strategia no, ma soprattutto ricordo che bombe e missili non hanno mai risolto nulla, in questi anni. E quando si è invasi, gli Stati Uniti hanno invaso l'Iraq e l'hanno occupato, tra virgolette, perché in realtà l'hanno occupato, come dire, virtualmente, non c'è mai stato un militare americano che si sia seduto a un bar di Baghdad a bere un tè. La realtà vera è che bisogna avere anche delle idee politiche, dei piani. Se si vuole fare una transizione, per esempio in Medio Oriente, in Siria, bisogna trovare delle soluzioni politiche che in qualche modo sostituiscano questo regime, che trovino delle alternative dentro e fuori questo regime, ma non si può lasciare, come dire, l'anarchia o il vuoto completo come si è lasciato in Libia o in Iraq e poi trascinandosi dietro problemi che non sono stati irrisolubili. E l'Afghanistan è la stessa musica, perché in Afghanistan la guerra va avanti dal 2001, sono certo, 16 anni, e in questi 16 anni non solo gli americani non hanno potuto pensare neppure a un ritiro, ma hanno dovuto chiedere agli alleati di rimanere. Voglio soltanto ricordare che ci sono ancora più di 800 soldati italiani nella base di Herat. Lo dicevo prima, parlando nel primo approfondimento su questa notizia, tendiamo a dimenticarci dell'Afghanistan perché non è più nei grandi titoli dei giornali, ma è sempre un problema aperto apertissimo. Non solo è aperto apertissimo, ma la questione afghana si sta, se vogliamo, complicando. Perché? Perché alcuni dei paesi che erano più o meno alleati degli Stati Uniti in questo periodo, soprattutto parlo del Pakistan, sono sempre più innervositi dall'atteggiamento americano, favorevole all'India, poco favorevole a Islamabad, che peraltro è stata anche complice, se vogliamo, dell'ascesa del jihadismo, dei talebani in queste zone di frontiera. Però cerca soluzioni da altre parti e si è rivolta a Mosca, si è rivolta alla Cina, cioè si è rivolta a paesi che in qualche modo possono offrire una sponda diplomatica e magari anche economica, nel caso della Cina, alternativa a quella americana. Cioè le soluzioni, per trovarle, bisogna costruirle nel tempo e non si trovano con la silver bullet, con la pallottola d'argento dei cowboy. Grazie, grazie ad Alberto Negri per la tua analisi. Buon lavoro, a presto Alberto, grazie mille. A presto, alla prossima. Noi voltiamo pagina, cambiamo argomento perché ve l'abbiamo detto, una delle notizie della serata era il tavolo governo azienda sindacati su Alitalia, che è in corso e ci aggiorna dalla redazione di Roma Teresa Trillò. Ciao Teresa. Ciao, buonasera a tutti. L'incontro è ancora in corso. In realtà questo incontro tra governo, sindacati e azienda va avanti da questa mattina. Sono 15 ore che si tratta in maniera serrata, a tavoli su tavoli separati. Ora c'è stata anche una plenaria tra tutti gli attori in campo per cercare una soluzione a questo piano industriale che ha presentato la compagnia la compagnia aerea un mese fa e che prevede poco più di 2000 esuberi e un taglio fino al 31% per le retribuzioni del personale di volo, piloti e assistenti di volo, e questo non va bene. I sindacati contestano questo piano perché è molto pesante per i lavoratori. E quindi tavolo tra governo e Italia sindacati ancora in corso, ci aggiornerai ovviamente in effetto notte se avremo notizie prima delle 22 e poi nei giornali radio di Radio 24. Grazie Teresa. Grazie a voi. E noi riprendiamo la linea da Milano, diamo a questo punto il traffico perché sono quasi le 21.45, poi parleremo di sicurezza con il nostro viaggio di Radio 24, la redazione sta compiendo un viaggio questa settimana sulla sicurezza in Italia, sulla percezione e anche sui numeri, e poi parleremo di Milan perché effettivamente è una delle grandi notizie del giorno. Tra poco. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova. Pantera.it col TH vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Gli Stati Uniti lanciano in Afghanistan la più grande bomba convenzionale dell'arsenale, non era mai stata usata. Finisce dopo 31 anni l'era Berlusconi per il Milan, la squadra è ora di proprietà cinese. All'Italia ancora in corso il tavolo, governo, azienda, sindacati. E ora parliamo della nuova puntata del viaggio di Radio 24 sui confini della legittima difesa. Oggi andiamo a Casaletto Lodigiano. Quello che è successo però a casa mia non ci viene. All'osteria degli amici, ora gli amici arrivano da tutte le parti, ora che sentono il bisogno di dire io sto con Mario. Mario Cattaneo, che nella notte di Casaletto Lodigiano ha preso il fucile e alla fine ha ucciso un ladro. C'è Trieste, c'è Roma, Verona, Sasso Marconi. Si riconosce la mano di anziani nella grafia di lettere e cartoline appese accanto alla macchinetta del caffè. Messaggi di solidarietà per l'inchiesta a cui è sottoposto Cattaneo, il cui racconto per gli inquirenti presenta alcune contraddizioni. Sentivo un gran rumore sotto, come dei tavoli che si spostassero. Invece dopo ho capito che era la Claire che stavano sradicando. Come si è aperta la porta, sono stato afferrato e trascinato fuori. È successo tutto questo. Io le armi le ho sempre avute perché essendo la passione della caccia, quindi erano lì. Adesso devo tenere lì un martello, un bastone, che mi possa difendere. La legge della sopravvivenza. Tra i primi ad arrivare in queste campagne tra Lodi, Pavia e Milano, il tabaccaio di Piazzale Baracca, Giovanni Petralli, che durante una rapina uccise pure lui un ladro. Condannato in primo grado a 1 anno e 8 mesi, è stato poi assolto. Stesso ribaltamento per Franco Birolo di Civecco Rezzola, e per una condanna in primo grado è passato pure Maiocchi, gioielliere milanese. Storie tutte diverse, ma che ora all'Osteria degli Amici sembrano a tutti una sola. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Casaletto Lodigiano. E questo era il nostro viaggio di Radio 24 sulla sicurezza. Domani mattina nel giornale radio alle 7 una nuova puntata, ma anche un reportage sabato. E da qui, da Casaletto Lodigiano, la puntata di Storiacce, sempre con Raffaella Calandra, alle 21.30 di sabato. Ma ci sono altre pagine da aprire nel nostro effetto notte. Allora, ne abbiamo parlato tanto nei mesi scorsi, nelle settimane scorse. Io ho preso molto in giro il collega del Sole 24 Ore, Marco Bellinazzo. Ogni volta che lo incontravo gli chiedevo: allora, i cinesi, il Milan? Ma ce l'abbiamo in linea Marco? Marco Bellinazzo. Allora, i cinesi, il Milan? I cinesi sono arrivati. Oh, sono arrivati. Capire quanto resteranno e come resteranno soprattutto. Allora, per settimane io ho sentito dire: questa sarà l'ultima partita con Galliani, l'ultima partita con Berlusconi, perché adesso non sa. Di fatto è successo, allora? È successo e ci sarà questo derby sabato 12.30 ora locale italiana, sintonizzato con il prime time cinese asiatico, con una platea quindi sterminata, e sarà il primo derby della Madonnina cinese. Ah, quindi squadre. Oggi che ero in famiglia, mio padre mi diceva: ah, ma lo fanno alle 12.30, e io ho spiegato: ma no, ma lo faranno perché è quasi Pasqua. Ingenuità la mia? No, assolutamente sì, perché il nuovo che avanza invece dal punto di vista del business del calcio, perché sempre più partite nei prossimi anni si giocheranno all'ora di pranzo, alle 12.30, perché è l'orario più appetibile, appunto, per quanto riguarda i telespettatori, quindi le TV della Cina, dell'Asia, e di conseguenza bisognerà adattarsi, come già fanno in Inghilterra e Spagna, alle nuove regole del mercato. E in quest'ottica, quindi, avere due squadre di Milano, entrambe cinesi, insomma, rafforzerà questo imperativo categorico, e forse ci sarà la lotta fra le due squadre a giocare in questo slot delle 12.30. Ah, quindi diventa uno slot pregiatissimo. Io sono veramente ingenua, Marco. Sai, non sei ingenua, sei legata magari a una visione tradizionale del calcio, la domenica pomeriggio, quell'ora in cui tutto si seguiva in contemporanea magari sulle radio. Ebbene, insomma, avremo invece da qui in avanti un campionato ancora più spezzatino, con partite che si giocheranno quasi tutte in orari diversi, in orari per noi insoliti, ma che sono comodi per gli spettatori che ci guarderanno e guarderanno il calcio italiano dall'altra parte dell'oceano, che sia in America o che sia in Cina. Ma Berlusconi sarà solo tifoso d'ora in poi? Sì. Si sta svolgendo, tra l'altro, proprio in questi minuti la cena di Arcore. Berlusconi ha invitato i nuovi proprietari cinesi, Li Yongyong, a cena ad Arcore per sostanzialmente augurargli un futuro con ancora più vittorie di quelle raggiunte nell'era berlusconiana, e comunque resta la più luminosa della storia rossonera, con 29 trofei alzati. Si sta svolgendo questa cena, menù classico tricolore preparato dallo chef di fiducia di casa Berlusconi. Non so quanta voglia però nell'intimo Berlusconi abbia di festeggiare, perché credo che, insomma, staccarsi dal Milan, dalla sua creatura prediletta, gli sia costato caro. Insomma, la Fininvest recupererà 520 milioni rispetto ai 900 che in questi 30 anni ha investito sul Milan, quindi ha fatto un buon affare tutto sommato. Ma Berlusconi, credo, dal punto di vista sentimentale, insomma, nonostante questi soldi, considererà una separazione davvero dolorosa quella dalla creatura rossonera, anche perché non potrà più chiamare forse l'allenatore per fare la formazione. Temo che proprio non gli potrebbe rispondere nessuno al telefono, non lo so, no, forse gli rispondono ancora. I soldi dove sono? Sono già nelle casse di Fininvest? I soldi sono nelle casse di Fininvest, che ha incassato i 520 milioni pattuiti più 90 milioni per la gestione dell'ultimo anno, che era doveva essere poi a carico dei cinesi, ma il closing è stato rinviato varie volte, quindi Fininvest ha anticipato dei soldi che sono stati puntualmente oggi restituiti con questi bonifici arrivati in mattinata. Peraltro i cinesi si sono accollati i 220 milioni di debiti. C'è da dire che metà dei soldi cash che sono stati versati al cinese Liu Yong, è più giusto usare insomma il singolare perché è lui l'unico proprietario, la metà, appunto quasi il 50%, 300 milioni, sono stati prestati da questo fondo americano che si chiama Elliott, che è un fondo famigerato perché è un fondo di investimento che opera proprio sui cosiddetti debiti distressed, cioè sui debiti che difficilmente riescono a essere ripagati. Non so se questo è il caso del Milan, ci auguriamo tutti di no, ed è famoso perché è stato accusato di essere un fondo avvoltoio dalla Kirchner, dalla presidentessa argentina, perché io aveva investito in bond argentini, non ha mai accettato decurtazioni o non ha mai accettato che il suo credito nei confronti dell'Argentina dopo il default fosse spalmato, e addirittura è riuscito a pignorare una nave argentina, una nave da guerra argentina, e a vincere la causa in un tribunale americano, causando nel 2010-2011 il secondo default tecnico del paese sudamericano. Quindi è un fondo che agisce con grande durezza a conforto dei tifosi milanisti, che raramente ha perso soldi, per cui nel caso insomma dovessero andare male le cose e non riuscisse Lin Yong a ripagare, Elliott potrebbe rilevare la società che è impegno al fondo americano e rivenderla magari ad altri acquirenti, ma appunto questo attiene al futuro lontano. Il futuro prossimo prevede che domani mattina ci sia questa conferenza stampa dove il nuovo proprietario si presenterà e presenterà i suoi programmi, e naturalmente tutti i tifosi del Milan si augurano che spenderà tanti soldi in estate riportando il Milan. Esatto, perché poi i tifosi sono preoccupati di quello. Vabbè, hai speso tanti soldi per rilevare il Milan, ma adesso spendili per il mercato. Sì, il problema è che i suoi sono quasi finiti. Altri beni sono congelati in Cina in attesa che le autorità monetarie riducano le limitazioni all'esportazione di capitali, e quindi insomma vedremo quello che accadrà da qui a fine estate. Insomma, i tifosi rossoneri non ne possono più di parametri zero, colpi alla tasse minion, vorrebbero grandi acquisti, e non ci sarà che appunto da attendere che la nuova dirigenza prenda il comando e vedere quello che accadrà da qui all'estate. Grazie Marco Bellinazzo, so che seguirai insomma la notizia in maniera come sempre competente e appassionata nei prossimi giorni. Grazie Marco. Grazie a voi, a presto. E abbiamo sentito insomma un intreccio tra affari esteri e calcio, intreccio tra affari esteri e invece musica per quanto riguarda lo Eurovision, perché la TV di Stato russa non trasmetterà il popolare festival musicale Eurovision che si svolge a Kiev in Ucraina. La decisione è una risposta alla decisione delle autorità ucraine, ormai lo sapete, lo abbiamo detto spesso, di non permettere alla cantante Yulia Samoilova di partecipare al festival. Ma per chiudere questo effetto notte vorrei parlare di cinema, del Festival di Cinema di Cannes. Come ogni anno, l'annuncio della line-up del Festival di Cannes propone certezze, sorprese e qualche assente. Anche quest'anno è italiano, visto che era la 70esima edizione del Festival, non ci sono nostri film in concorso. Due invece sono presenti nella sezione Un Certain Regard. Si tratta di Fortunata, di Sergio Castellitto, con Jasmine Trinca e Stefano Accorsi, definito dal direttore Frémaux come una mamma Roma contemporaneo, e di Après la guerre, di Annarita Zambrano, con Giuseppe Battistone e Barbara Bobulova. Ad aprire la kermesse della Croisette il 17 maggio è Le Fantôme d'Ismaël di Arnaud Desplechin con Marion Cotillard. Per il resto, tra i 18 film in concorso ci sono Sofia Coppola con The Big Hill, Michael Haneke con Happy End, Todd Haynes con Wonderstruck, Noah Baumbach con The Meyerowitz Stories, che ha nel cast Dustin Hoffman, Ben Stiller e Adam Sandler. Apertura alle serie TV con due registi di cinema puro come Jane Campion con la seconda stagione di Top of the Lake e David Lynch con la terza serie di Twin Peaks, di cui saranno presentati due episodi. Spazio anche alla realtà virtuale, con un corto di 7 minuti firmato addirittura da Inarritu, perché anche dopo 70 anni lo sguardo di Khan è sempre rivolto al futuro. Franco D'Assisti, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Velocissimi ringraziamenti in fondo a Effetto Notte, grazie a Paolo Corleone in regia, a Cristian Goldoni in redazione. Noi ci risentiamo certo tra poco col GR, ma sabato al Sabato del Villaggio alle 15.